Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Spesso nei bollettini sul traffico avete ascoltato l'indicazione «Oggi i veicoli pesanti non possono circolare». E in effetti, in Italia, così come in altri paesi europei, esistono dei divieti di circolazione per i veicoli pesanti in alcune giornate considerate critiche per la circolazione a causa dell'intenso traffico. A stabilire quali sono queste giornate è il Ministero dei Trasporti, che ogni anno, proprio in questi giorni, pubblica il calendario dei divieti per i veicoli con massa pari o superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Anche in questo 2016 i divieti riguarderanno principalmente le domeniche e i giorni festivi, ma con qualche novità. Nel corso dei mesi estivi, lo stop inizierà a partire dalle ore 7 e fino alle 22, mentre per tutto il resto dell'anno i veicoli saranno fermi, le domeniche e i festivi, a partire dalle ore 9. Il calendario 2016 prevede inoltre la fine del periodo sperimentale e la stabilizzazione della deroga dai divieti per i mezzi che compiono trasporti combinati, quei trasporti che si effettuano sia su strada sia su ferrovia o per via navigabile. Deroghe sono inoltre previste per i trasporti deperibili e per quelli che devono garantire i cicli continui. Ma qual è l'impatto di questi divieti sull'economia nazionale e sulla sicurezza stradale? E cosa accade nel resto d'Europa? Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della mobilità. Puntuale come ogni anno è arrivato anche un calendario particolarmente atteso dagli autotrasportatori, che non è, come qualcuno potrebbe pensare, quello dell'ultima starletta di turno, ma è il calendario dei divieti di circolazione, un tema che ha un impatto rilevante non solo sulle imprese di autotrasporto, ma come ascolteremo sull'intero sistema produttivo italiano. Proprio per questo motivo quella sui divieti di circolazione è una battaglia che vede unite, direi eccezionalmente, le associazioni di categoria dell'autotrasporto e quelle della committenza, che sono tra l'altro riuscite a portare a casa quest'anno un risultato significativo, cioè una riduzione delle ore di stop dei veicoli rispetto ai divieti dello scorso anno. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Angelo Nascenzi, responsabile sezione trasporti internazionali di Anita. Nascenzi, come saranno distribuite queste circa 940 ore di divieto di circolazione previste per il 2016? Intanto diciamo che quest'anno il calendario è abbastanza favorevole, nel senso che una serie di festività coincidono con giorni di domenica e quindi rispetto allo scorso anno diciamo c'è una riduzione in termini di ore, ma c'è anche una leggera riduzione in termini di giornate, perché tolte le 52 domeniche che sono incomprimibili con l'attuale codice della strada, abbiamo 8 giornate festive e 11 giornate infrasettimanali non festive ma ritenute necessarie dalla forza di polizia, dagli enti proprietari delle strade, perché in coincidenza con ponti diciamo legate alle principali festività nazionali. Floriana Buccioni, responsabile sezione trasporti di Confindustria, qual è l'impatto di questi divieti sul mondo produttivo italiano? Chiaramente i divieti incidono sulla continuità produttiva delle aziende, lo sappiamo, perché vorremmo circolare salvaguardando sempre la sicurezza stradale, certo, e anche sociale comunque, certo, dell'autista. In qualche modo insomma si vorrebbe circolare sempre un pochino di più, ma anche soprattutto in questo periodo di crisi. Per quanto riguarda poi insomma proprio strettamente sull'attività produttiva, abbiamo ottenuto insomma dei risultati diciamo molto apprezzabili negli anni precedenti, e vorremmo comunque che riguardo ai cicli industriali e soprattutto per esigenze di specifici prodotti che sono in deroga generale, questi qui necessiterebbero in qualche modo quindi una maggiore attenzione, soprattutto per non creare, che ne so, quei vuoti lì dove c'è anche un'autorizzazione prefettizia tra provincia e provincia, un'uniformità quindi dell'autorizzazione, andando quindi anche verso una standardizzazione. Poi bisogna anche considerare che anche per esigenze congiunturali o stagionali, in qualche modo il calendario dovrebbe rispondere anche alle esigenze del mercato, che magari richiede sempre consegne sempre più veloci. Nascenzi, la dottoressa Buccioni ha anticipato un tema importante quando si discute di divieti di circolazione, quello della sicurezza stradale. Quanto incidono i divieti di circolazione su questo tema? Ma diciamo che il tema è stato preso ingiustamente nel corso degli anni come parametro di insicurezza nella circolazione degli altri utenti della strada quando i TIR circolano. I dati statistici diffusi sia dalla Polizia Stradale che dall'ACI dimostrano invece il contrario, cioè il picco di incidentalità si registra quando i TIR stanno fermi e quindi sono altre categorie, altri utenti della strada che si caratterizzano per questo tipo di incidentalità e peraltro in giornate in cui i fine settimana più che altro e luoghi, cioè non le autostrade per capirci, ma incidenti che avvengono in ambito urbano. Nascenzi, questi divieti prevedono anche delle deroghe per quali categorie di veicoli o tipologie di merci? Diciamo che storicamente le deroghe si suddividono in due grandi macro aree: le deroghe generali, che comprendono tutta una serie di trasporti particolari che vanno dalle derrate alimentari, i giornali, le cisterne che portano l'acqua per uso domestico, il rifornimento del gasolio dei punti di rifornimento sulla rete autostradale, giornali, farmaci. Questi sono i prodotti che storicamente stanno nel comparto delle deroghe generali, per le quali non è necessario chiedere niente a nessuno. L'altro comparto di deroghe sono le deroghe prefettizie e qui abbiamo due grandi gruppi, i trasporti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali necessitano di un'autorizzazione prefettizia limitata nel tempo, oppure esigenze legate al ciclo continuo di produzione industriale, anche qui legati a autorizzazioni che hanno una validità massima di 4 mesi che il prefetto nella sua discrezionalità decide di rilasciare. Quindi è una decisione che riguarda i singoli prefetti e qui ritorniamo a quello che diceva prima la dottoressa Buccioni, a cui chiedo: queste deroghe sono sufficienti a garantire il funzionamento della macchina produttiva e distributiva italiana o ci sarebbe bisogno di altri interventi? I divieti diventano un problema di regolazione, quindi vanno a incidere proprio sulla competitività del paese. Magari si potrebbe cercare di andare a favorire il mercato prendendo delle best practice che possiamo avere, stiamo ottenendo, sull'intermodalità o andando a favorire qualsiasi altro tipo di trasporto, affinché quindi ci siano apertura di logica H24, nei porti, nei terminal. Le deroghe prefettizie non è che non bastano, però se lo standardizziamo e andiamo verso nell'ottica il ciclo continuo, i macchinari non si possono fermare perché devono comunque andare a determinare una certa continuità di flusso, quindi di prodotto, sarebbe opportuno che venisse inserito nella deroga generale, perché comunque anche lo stesso decreto ministeriale ci dice per esigenze, motivi necessari quindi urgenze, è sempre a discrezione appunto le prefetture, quindi magari la merce ci parte e poi dopo non arriva a destinazione. Quindi c'è bisogno di una maggiore standardizzazione. Ecco, tra l'altro voi avete anche chiesto come Confindustria un intervento proprio sul codice della strada a questo proposito. Stiamo lavorando sul provvedimento che è adesso in Parlamento, che si è fermato con la legge di stabilità e i cui emendamenti andranno quindi alla riapertura delle Camere. Quello che abbiamo proposto in prima battuta è la soppressione delle domeniche. Più in là speriamo un po' di andare a vedere se questo ciclo continuo effettivamente, tenuto conto poi della volontà dei nostri associati e delle sollecitazioni che abbiamo, possa entrare nella deroga generale. Nascenzi, siamo in chiusura, un'ultima battuta: cosa succede nel resto d'Europa? Sono previsti gli stessi divieti che esistono oggi in Italia? Ma che intanto, se stiamo solo all'Unione Europea, 28 paesi, 16 prevedono divieti di circolazione, tra cui l'Italia, e i restanti 12 non prevedono alcun tipo di divieto. Poi all'interno dei paesi che prevedono calendari dei divieti vi sono paesi che hanno molto meno divieti in termini di ore di divieto o di giornate di divieto rispetto al calendario italiano.